Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Signori, i funamboli sono tornati alle 9:06, ormai quasi 9:07 qui a Radio 24, che è la radio più bella del mondo. Veronica, lo sapevi? È la più bella del mondo, posso confermarlo. E va bene, nel senso che abbiamo delle strutture, delle pareti, un'architettura molto esteticamente molto è molto bella, questo è insindacabile. No, così è. 349-238-6666, questo è il numero per scriverci, per mandarci anche dei WhatsApp, soprattutto se li mandate in audio, è una cosa molto bella, gradita, che così noi vi mandiamo in onda. E poi chiamateci all'800240024 oppure scriveteci la mail funamboli@radio24.it. Senti Ale, ma com'è andata ieri? Ieri che cosa? No, non sei andato anche tu a fare il test per entrare in medicina? No, io ho una laurea in scienze politiche, tu sei laureata? Hai fatto... Ho fatto le lettere classiche e poi l'Accademia d'Arte Drammatica. No, io ho questa laurea qui, per cui mio suocero mi chiede sempre, ma quando ti laurei veramente? Ma comunque, a parte questo, ieri si è consumato questo rito, hai qualcosa contro scienze politiche? No, assolutamente, no. Poi dipende come uno le ha fatte, però insomma... Vabbè, l'ho fatta adesso, ho preso 105, insomma. No, ma mi chiedevo perché tu no, voglio dire, l'età di ieri ai test di medicina andava dai 17 ai 70 anni e quindi insomma, ecco, anche tu eri ben accetto, no? Questo infatti è il problema che ho visto questa mattina sui giornali, vedendo di questo rito che si consuma ogni anno dei test d'ingresso a medicina, e sono presentati in 67.000 per 9.100 posti, ne passerà uno su 7. Quello che mi ha colpito è che ci sono stati anche due candidati che sono presentati, uno di 70 anni e l'altro di 68. Allora, ne abbiamo anche uno di 58, credo, a Milano. Vabbè. Che già lei dici, vabbè, ancora c'è tempo. Ma o funambolo settantenne, o funambolo vocativo, o mi rivolgo a te, Per carità, la voglia di sapere, la voglia di colmare magari una lacuna, non so, non hai mai preso una laurea, la vuoi prendere, oppure sei sempre stata appassionata a medicina, sei ipocondriaco, non lo so, io non lo so, ma l'idea bizzarra che tu tolga un posto a un giovane 17enne che magari vuol fare il medico, vuole ambire a questa professione che è ancora un po' una missione, non te lo sei posto, cioè cosa farai se passi al test? Il medico a 78 anni, il geriatra forse, non lo so, dopo potrebbe la specializzazione. Darsi. Potrebbe darsi. Potrebbe pensare a fare il geriatra. Sono rimasto perplesso. Sai cos'è? Che quest'anno le polemiche relative al numero chiuso, che come sappiamo sono state un po' all'ordine del giorno, perché appunto siamo reduci dal TAR che ha bocciato l'introduzione del numero chiuso nelle materie umanistiche. Allora adesso i conflitti, i dubbi che si pongono sono tanti. Il numero chiuso ha senso o non ha senso? È meglio laurearsi in tanti, quindi avere accesso all'istruzione, però poi rischiare di rimanere senza lavoro, oppure decidere invece di stabilire a monte un numero chiuso e quindi poi quando ti sei laureato avere maggiori possibilità? E questo è il grande dubbio che c'è. Oltretutto, una delle cose che colpisce degli articoli che leggevo oggi è che risulta che il 35% delle persone che hanno avuto accesso al test ha copiato. Quindi tu dici, stabilisco di mettere il numero chiuso, così faccio una selezione, una scrematura di qualità alta, e poi il 35% ha copiato. Come stanno insieme le due cose? Peraltro ci sono ogni anno le polemiche anche sulla qualità dei test. Il professor Giuseppe Remuzzi, che è un grande amico e grande scienziato, che ne scrive sempre sul Corriere della Sera, fa notare ogni anno che ci sono delle domande bizzarre. Pare che quest'anno, almeno dai candidati, sia andata un po' meglio, cioè domande un po' più attinenti al ruolo di essere medico. Però il dato di fatto è che effettivamente, come dici tu, 35% ha copiato dallo smartphone. Poi l'altra polemica che ieri è stata dominante, no, di tutti i vari gruppi che hanno protestato, era: i medici sono in estinzione, quindi non deve esserci il numero chiuso. Quindi anche su questo, ci sono pochi medici effettivamente? C'è maggior bisogno di figure specializzate in medicina? Anche questa è un'altra delle tematiche che si è posta ieri. Comunque, io non voglio togliere il merito al nostro funambolo settantenne, al nostro funambolo sessantottenne o, come dici tu, al funambolo cinquantottenne. Però magari a pensarci prima di fare qualche anno fa l'università di medicina, invece ora di togliere di fatto un posto, se mai verrete presi, a un giovane. Qualora poi questo signore però dovesse prendere il Nobel tra una ventina d'anni, tu dovrai 90. Andare lì con il capo cosparso di cenere e dire: a mi scusi, io non avevo capito, ho frainteso, sono pieno di pregiudizi e così via. Lo farò. Va bene, dai, sono le 9:12 minuti, 800 24 00 24. Anche oggi abbiamo tanti temi, abbiamo tanti funamboli, abbiamo tante storie. C'è anche Leonardo Manera che tra poco ci sollazzerà con i suoi personaggi, con le sue incursioni sullo sguardo laterale delle cose. Intanto si comincia. Allora, cara Veronica, lo sai che è uno dei temi per i quali, peraltro, si viene attaccati, soprattutto sul tema del populismo, della demagogia, è quello di andare a fare i conti di quanto guadagnano i parlamentari, perché c'è un dibattito molto serrato, c'è anche una legge in discussione, la cosiddetta legge Richetti, dal primo firmatario Matteo Richetti, passata alla Camera, ora dovrà affrontare le forche caudine del Senato, perché ci sono ovviamente molti senatori che la vogliono impallinare, e questa legge prevede il ricalcolo con il metodo contributivo dei vitalizi, anche i vitalizi. Infatti pregressi. La parola è vitalizi, che è stata ormai diventata una delle parole più dette insieme a ciao, queste qui, no? Sì. Sì, devo dire che buonasera, effetti, buonanotte, vitalizi, cioè sono queste quelle che ormai si utilizzano di ma più. Ma sì, da qua, dai tempi della casta di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, poi è diventato un profluvio di libri, di inchieste. Perché sostanzialmente un po' stancato, se si modificano o meno non lo sappiamo, se verranno modificati non lo sappiamo, però sappiamo che sicuramente per animare il dibattito collettivo e per offrire un argomento di conversazione sono stati di grande utilità. Assolutamente sì, però vogliamo raccontare questo punto di vista da un racconto, se volete, dall'estero, un qualcosa, un punto di prospettiva che magari voi non sapete molto. Sapete, per esempio, quanto guadagnano i parlamentari in pensione in Germania? Ecco, ce lo chiede, ce lo racconta Roberto Giardina, che è con noi, è corrispondente, tra l'altro, del quotidiano Italia Oggi da Berlino. Roberto, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Allora, quanto guadagna e quando si va in pensione? Se si è, cioè, un'Angela Merkel, quando è che andrà in pensione? Giusto per fare. Angela Merkel andrà in pensione probabilmente nel 2021, se decide di mollare, insomma, perché alcuni vogliono ancora che si presenti per la quinta volta. Comunque lei adesso guadagna con tutti gli option, no? Solo sui 310.000 euro all'anno. Vabbè, che non è male. Sono quasi 900 euro al giorno. Insomma, lei dice che fare il cancelliere non è un lavoro, ma una missione, quindi è una missione ben pagata. Sì. No, mi sembra giusto, perché sennò si dice solo che i politici italiani sono ben pagati, invece mi sembra che 300 e rotti mila euro non è male. No, anche loro hanno qualche privilegio, però lì la situazione è un po' diversa, cioè è intesa come una sorta di pensione, di indennizzo di anzianità, mi corregga se sbaglio. No, loro hanno una pensione come tutti i lavoratori, quindi dopo 4 anni dopo una legislatura che qui dura 4 anni, hanno diritto a 825 euro di pensione, però l'avranno come tutti quando compiranno 65 anni o tra poco a 67 anni. se vanno in pensione, se non sono più eletti, devono farsi trovarsi il lavoro. E però in Germania non versano i contributi durante il mandato, vero? No, non versano i contributi, come non versano, perché anche sono equiparati ai funzionari statali, che a questi Beamte, che hanno questo privilegio e che non pagano contributi sulla pensione, però non possono essere licenziati come diciamo funzionari statali, ma non possono neanche scioperare, quindi c'è quello positivo e negativo. Però, per venire alla domanda iniziale, se ho capito bene, in media ovviamente, parlamentari prendono una rendita mensile quando vanno in pensione di 825 euro per aver fatto un mandato. Per un mandato. E solo dopo i 67 anni. Guarda che però, Roberto, adesso in Italia è così, perché i vitalizi sono stati modificati. Sì. Ovviamente per situazioni pregresse si sta discutendo della legge Richetti, se modificarli, se ridurli, eccetera. Sì. Però anche adesso, lo diciamo per correttezza, perché gli ascoltatori pensano: adesso il parlamentare, da adesso in poi, i parlamentari che fanno un mandato in Italia più o meno prenderanno quella cifra all'incirca lì a 65 anni, sì. Quindi siamo allineati con la Germania. Sì, poi devo dire che un deputato tedesco guadagna, adesso non so quanto guadagna esattamente un italiano, un collega italiano, però oggi guadagna un tedesco 9.327 euro al mese, però sono lordi, che diventano 4.400 netti, ma dipende poi se uno è sposato con figli o meno, insomma le trattenute sono diverse, e hanno 4.300 euro di rimborso spese a forfè, così qualunque spesa abbiano, questa è la cifra, sì, che ricevono, e questa non è tassabile, però bisogna sempre vedere nei particolari, perché per esempio in Italia si dice che i tedeschi hanno 4.500 euro per i portaborse, però non ne vedono neanche un centesimo. Queste somme vanno direttamente ai collaboratori, pagate dal Parlamento. Ah, cioè, non è che sono affidate al parlamentare, poi il parlamentare ne dispone come è anche diciamo il ristorante del Parlamento. Qui io chiunque visita il Parlamento può andarci a mangiare, ci ho mangiato anch'io, ed è una specie di mensa aziendale. diciamo la verità. Come si mangiava? Questo lo vogliamo sapere, però. Si mangiava bene, ma io ho mangiato un würstel, cioè una salsiccia con patate. Un evergreen, insomma. Che ho pagato 4 euro, 5 euro. Cioè, quanto avrei pagato in qualsiasi chiosco di würstel per la strada? Adesso, Roberto, non vogliamo disquisire sul livello della cucina teutonica rispetto al livello della cucina italiana, però. Ma posso chiedere una cosa? Nell'opinione pubblica tedesca, cioè tra la gente, c'è la stessa proprio idiosincrasia ormai nei confronti dei cosiddetti vitalizi, o in quel caso della pensione d'anzianità dei parlamentari? Cioè c'è lo stesso dibattito altrettanto acceso come lo è qui in Italia? No, assolutamente no. Si parla piuttosto dei deputati che fanno un secondo lavoro, però ognuno è obbligato a denunciare quanto guadagna extra. Certo. Beh, che quello succede anche in Italia, insomma, non però, vincolati ad avere un unico lavoro del Parlamento. Però diciamo che non è una tematica, insomma, che fa notizie e che è da prime pagine dei giornali. Però no. Il punto di partenza, e intanto noi ti ringraziamo moltissimo, Roberto Giardina, è questo: un parlamentare in Germania prende 825 euro di pensione se fa un solo mandato, che ripeto è allineato a quello che sarà da ora in poi più o meno in Italia. E lo prenderà dai 67 anni, credo in Italia 65 ancora adesso. Devo dirti che guardando gli standard europei complessivi, comunque poi ci sono alcuni paesi leggermente più virtuosi, però tendenzialmente anche in Francia, cioè voglio dire, non è che ci sia questa discrasia enorme. Questo sì, il problema nasce, e qui vogliamo approfondire con il secondo ospite del giorno, sul tema dei vitalizi cosiddetti diritti acquisiti, chiamiamoli così, cioè quelli su cui vuole incidere la legge Richetti. Mi sono bastati 8 giorni di lavoro alla Camera per intascarsi una bella pensioncina del 2160 euro. Poi basta. Dato che riprendono a me, sbattili fuori. Non so se ti ricordi, Veronica, questo è Filippo Roma delle Iene, che ha fatto una di quelle incursioni a, credo, Angelo Pezzana, insomma uno di quei parlamentari che in passato ha fatto pochi giorni in Parlamento. Ci sono anche queste storie e gode di un vitalizio. Che sono quelle storie che sono poi quelle che creano lo scandalo, chiaro, perché ogni volta che vengono tirate fuori uno inorridisce davanti a privilegi assurdi, magari dovuti a una settimana di lavoro, un anno di lavoro, per cui si avevano appunto delle rendite poi secolari, e quindi da lì nasce l'intolleranza, esatto, delle persone. L'intolleranza delle persone. Noi invece vogliamo avere un approccio molto più pragmatico, per questo abbiamo chiamato l'ex ministro del lavoro, oggi deputato del Partito Democratico, Cesare Damiano, che è con noi. Onorevole Damiano, grazie di aver accettato l'invito. Buongiorno. Perché vogliamo parlare in maniera concreta di questa legge Richetti, che è passata alla Camera, ricordiamo, deve passare al Senato, vuole ricalcolare col metodo contributivo i passati vitalizi, e l'onorevole Damiano ha posto, non da solo per la verità, ha posto una problematica dicendo, la traduco io così, poi mi corregga se sbaglio, onorevole, ovviamente, attenzione, perché questo è un precedente pericoloso, lo fate per i parlamentari? Va bene, allora se consideriamo i parlamentari uguali agli altri, sappiate che potrà toccare anche ai cittadini italiani, a tutti quanti. Perché lei la pone così, onorevole? No, io la pongo così perché voglio chiarire subito un primo aspetto. Il fatto che si debba tagliare a me non dispiace, anzi io sono assolutamente d'accordo. Per questo l'ho già dimostrato nel passato, quando ero ministro c'erano in vigore delle regole che nel caso di un ministro non parlamentare consentivano di ricalcolare la pensione, quindi in modo molto vantaggioso, regola alla quale io ho rinunciato, ad esempio, nel senso che ho preso nel lontano 2008 la mia pensione dell'INPS, quindi calcolata normalmente. Quindi io non ho questo problema del tipo voglio avere un privilegio assoluto, mantenere un privilegio assoluto. È giusto che si provveda ad eventuali nuovi tagli. Ricordo che già dal 2012 non c'è il contributo di solidarietà, i cosiddetti vitalizi vecchio stile, e questo è vero, in quanto, come lei sa, per atto autonomo del Parlamento, prima della legge Fornero, il Parlamento aveva deliberato perché dal 1 gennaio 2012 ci fosse il contributivo anche per i parlamentari. Questo per il futuro, quindi, Damiano. Il problema, appunto, sono cosa che poi è stata estesa anche, come si dice, al normale lavoro, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece il passato, allora, io sono d'accordo sul fatto che nel passato sono esistite anomalie che non esistono più, sono 2500 persone che ricadono in questo tipo di normativa, che non esistono più. Ricordiamolo che adesso bisogna avere almeno 5 anni di mandato per avere, eccetera, eccetera, bisogna si può conseguire all'età di 65 anni per i nuovi, così adeguati al contributivo, quindi tendenzialmente quindi, come gli altri lavoratori. E però si vuole Damiano proprio incidere proprio su quelle, su quegli episodi di allora, è lì che si vuole l'aspetto retroattivo, quello che per incidere su quegli episodi, quello che io contesto. Se avessimo potuto come Commissione Lavoro cooperare con la Commissione Affari Costituzionali e dare la nostra esperienza in materia previdenziale, che è evidente, come si dice, è un'esperienza che deriva dal fatto che noi ci occupiamo di quella materia, ma non lo abbiamo potuto fare perché non siamo stati coinvolti, avremmo detto troviamo delle soluzioni alternative, cioè conseguiamo il medesimo risultato di taglio, ma in un'altra maniera, anziché prendere il treno prendiamo l'auto, ovvero? Faccio per dire, cioè c'è una legge, una proposta di legge ad esempio dell'onorevole Giacobbe che io ho sottoscritto, nella quale noi proponevamo un tetto massimo al di sopra del quale si poteva agire con dei contributi di solidarietà, insomma un cumulo ad esempio fra i vitalizi regionali, nazionali e europei, al di sopra del quale si agiva con dei tagli. Qual è la mia preoccupazione? Sì. La mia preoccupazione è quella che lei ha sapientemente riassunto, questa: se si introduce un principio che per il momento può valere soltanto per i parlamentari del ricalcolo, per quanto riguarda deve passato, valere su tutti, deve quindi valere per tutti. Facendo, come si dice, agire questo ricalcolo per coloro che oggi sono già in pensione, la mia domanda, ma un domani passiamo dal parlamentare all'operaio, punto di domanda. Allora, ecco, la domanda però è questa ed è legittima da parte sua. Io prima ne ho parlato anche con Oscar Giannino e lui con l'Istituto Bruno Leone hanno depositato una proposta di legge in passato che è questa: forse il ricalcolo contributivo andrebbe davvero fatto per tutti i pensionati, attenzione, però con alcune accortezze, per esempio partendo da quelli che hanno 5 volte il minimo vitale, che è 518 euro, e quindi le pensioni dai 2002 in su. Lo dico Lo dico, popolare o impopolare che sia, io voglio mantenere, diciamo così, una rettitudine di impostazione, mettiamola così, perché io questi discorsi li conosco da molto tempo. Allora, ci sono i predatori della previdenza, che vengono dalla previdenza, il grande serbatoio dal quale pescare soldi, con l'obiettivo di sanare il debito a spese dei pensionati. Sì, lei immagini, io so la proposta Giannino, c'è stato il presidente dell'INPS che ha fatto una proposta analoga, che infatti agisce dai 3.500 in su. Lei comprende? No? E perché no? Cioè i più benestanti, Poi andiamo dai lavoratori da 3.500 in su, poi andiamo da quelli da 2.500 in su, poi ci fermiamo. No, ma non ci siamo mai fermati. Io so benissimo quello che è capitato nel 2011, purtroppo, che noi abbiamo adottato un sistema al quale abbiamo dovuto riparare negli ultimi 5 anni, che ha spostato di 6 anni in avanti il momento della pensione senza alcuna gradualità, e ci siamo accorti poi che abbiamo creato gli esodati, cosa che avevo detto dall'inizio inascoltato, che abbiamo creato un disastro sociale. Io vorrei solo ricordare che le riforme pensionistiche dal 2004, Maroni, la mia del 2007, quella 2010-11 di Berlusconi, quella del Monti Fornero, eccetera, produrranno un risparmio dal sistema pensionistico 2004-2050, calcolato con nota tecnica del governo allegata al precedente legge di bilancio, pari a 900 miliardi di euro, che non andranno più nelle tasche dei pensionati in 46 anni, che è il 40% del debito pubblico di questo paese. Scusi. Quindi io un altro assalto alle pensioni che si apre con un varco. Non lo vuole. Onorevole, io volevo sapere un'altra cosa, però c'è un altro aspetto, che è un aspetto, se vogliamo così, più filosofico della questione dei vitalizi, che ho visto che tutto il fronte anche del Partito Democratico, che è contrario a questa proposta, è quello, anche l'aspetto demagogico della proposta. Quindi, se vogliamo, questa è una proposta, la proposta Richetti è arrivata abbastanza tardi rispetto a quelli che erano i tempi in cui si richiedeva, è venuta a seguito di proposte analoghe introdotte da altri partiti e con una modalità, anche nei termini in cui è stata raccontata, abbastanza così divulgativa, demagogica, volta anche a trarre consenso. Lei questo aspetto lo valuta? Che cosa pensa di questo? Sicuramente la proposta, come si dice, arriva un po' in ritardo, come avete detto, a questo aspetto demagogico. Sicuramente c'è, come si dice, una spinta, anche giustificata, dell'opinione pubblica, che viene raccolta in un modo sbagliato. Io ripeto, lo dico senza ombra di dubbio, se c'è un privilegio va tagliato, se c'è un errore va corretto. Non facciamo soltanto che si crei una condizione, un precedente che colpisco me per colpire gli altri. Allora, un conto è intervenire sulla questione dei parlamentari e si trovi una soluzione, esistono proposte di legge alternative che producono lo stesso risultato, un conto, io sono sempre stato contrario, e introdurre il principio del ricalcolo. Che tra l'altro è introdotto da un suo collega di partito, ricordiamo, Richetti. Che sia un mio collega di partito va benissimo, che abbia fatto, a mio avviso e per carità, una proposta sbagliata, secondo me è una proposta sbagliata, l'ho detto in aula. Sì. Mi sono alzato, ho fatto il mio intervento in dissenso con il mio gruppo. Certo, quel punto, il ricalcolo, lo ripeto, se si apre la strada, proponga Giannino, voi chi vuole, il ricalcolo delle pensioni in essere, mi per lei vale su tutto. No, se la strada è quella di tassare in modo solidale le pensioni da una certa soglia in su, 3.500, 4.000, 5.000, come è stato fatto nel passato, mi troverà totalmente assolutamente d'accordo. Favorevole. La sua posizione è molto chiara e la ringraziamo, onorevole Damiano. Sì, c'è da dire, poi tu dici, Veronica, alla fine, in realtà questa proposta di Chetti, perché questa è stata anche una furberia, visto che noi abbiamo la che prevede la comunque, nostra, ridiciamolo, il 40% di taglia ai vitalizi degli ex parlamentari, anche che questa è uno degli aspetti più controversi, per cui si parla di incostituzionalità, per esempio. No? Dicevo, la furberia, visto che noi abbiamo la campagna dei furbizziamoci, è stata proprio questa, che la proposta di Chetti è di 3 anni fa, ma è rimasta in qualche cassettino della Camera per 3 anni. 3 anni fa c'era la maggioranza per approvarla in 5 giorni alla Camera e al Senato. L'hanno tenuta chiusa nel cassetto per 2 anni. E certo, l'hanno proposta in un momento elettorale della legislatura in cui, guarda caso, sta per finire la legislatura e non se ne fa. Ma infatti lo vogliamo dire, Alessandro, che in parte fare questa cosa adesso è un po' come dire: ci cospargiamo il capo di cenere, vi facciamo vedere che anche noi adesso siamo disposti a scendere a patti con voi comuni mortali, a farvi vedere che siamo uguali a voi e a tentare di colmare una distanza che si è creata molto forte tra la politica e la gente. E che poi non verrà approvata. Questo è il mio pronostico. Infatti, al Senato. Probabilmente, cinicamente, bisogna dire, ci sono anche molti parlamentari che hanno cavalcato l'onda dicendo: io desidero più di qualsiasi altra cosa fare questa legge sui vitalizi, sapendo che poi tanto non ci sarà il fronte parlamentare, allora, per portarla avanti. Sono le 9:31 minuti, dobbiamo andare un attimo con ritardo in pubblicità e poi rientriamo. Ci sarà un parlamentare, anzi un ministro, non un ministro, un ministro che canta sui vitalizi. No, adesso non è che canta sui vitalizi, vabbè, ma insomma fa una funamboleria mica male. Poi parleremo di un sindaco che si è raddoppiato lo stipendio e insomma e tante altre cose. State qui. I funamboli. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Galletti, il ministro che canta. Veronica, hai trovato gli sms? Perché siamo andati in onda sulla pubblicità con io gli non sms. So se è peggio Galletti che canta, senti, o senti, quello che ho detto io durante il la ministro, pubblicità. No, niente, vi compromettete. Il ministro peccato Galletti, sentilo qua, sentilo. Faranno ritorno. Ok, ministro, sì, no, questo non è il mio mestiere. No, senta, ministro, volevo solo chiedere una cosa in senti. Più. L'anno che verrà il titolo della canzone. Nell'anno che verrà, a suo parere, siccome noi facciamo il karaoke e poi anche una domanda sul taglio dei vitalizi, lei che ne pensa? Verrà questo taglio? Si farà melina in Senato? Beh, io spero che avvenga prima della fine dell'anno. È il grande Dejan Cetnikovic, magari l'ha incrociato qualche volta a Roma, che incontra i politici e poi ne ha fatto anche un sito, karaokereporter.it, li fa cantare e questi ma cantano. No, ma poi uno dice che i politici non sono coraggiosi, cioè è proprio così, senza paracadute. Ma perché devono cantare? Dici, tu sei il ministro Galletti, scusi ministro, può cantare? No, grazie, no. Guardi, ho una riunione, io mi occupo di ambiente, no, cantano. Eh no, perché devono far vedere che sono simpatici e stanno al gioco, non rendendosi conto che poi l'effetto è devastante. Tragico, tragico. Dal punto di vista anche della resa, del personaggio, è la fine. Oh, vabbè, signori. Allora, abbiamo parlato un po' e con Cesare Damiano ci ha spiegato le sue proposte. Non condivido il fatto che se si interviene per tutti si debba intervenire anche a scendere per le pensioni degli operai, dei metalmeccanici. No, si potrebbe mettere un limite dai 2500 in su e ricalcolare col contributivo, ma comunque Cesare Damiano la pensa. Una piccola malignità la possiamo dire. La gente dubita quando loro dicono: noi ci preoccupiamo per gli altri, che questa cosa poi venga estesa a tutti i pensionati. Loro dicono: ma la preoccupazione è realmente per tutti i pensionati o unicamente per loro? Dell'ennesimo bluff. Quindi purtroppo meno fiducia c'è nei politici e meno le argomentazioni diventano plausibili. In ogni caso, a proposito di stipendi dei politici, qui come funambolo ospite abbiamo un sindaco che abbiamo chiamato, è il sindaco di Giovinazzo, siamo in provincia di Bari, dunque in Puglia, Tommaso De Palma, che salutiamo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli spettatori. Allora, caro video sindaco, e audio. Anche video, perché siamo anche in diretta su Facebook e quindi ci possono vedere. Caro sindaco, lei ha fatto una cosa che, letta alla luce dell'oggi, è, glielo diciamo, vagamente impopolare. Lei so che ce la spiegherà dicendo: ma io prima mi ero dimezzato lo stipendio, quindi adesso, siccome me lo sono raddoppiato da sindaco, in realtà sono tornato ai livelli di prima. Il dato di fatto è che sui giornali esce questa notizia: il sindaco eletto si raddoppia lo stipendio. Allora, la breve cronistoria è che il sindaco si era dimezzato lo stipendio al round precedente e probabilmente anche in virtù di questo gesto è stato rieletto in questa tornata di amministrative. Che dice sindaco? Sì. Anche questo aspetto avrà inciso un po'? Ma io questo non lo so se è stato sì o meno, vorrei sperare di no, perché penso che forse sarebbe più giusto che i cittadini, al di là di queste cose che sono sicuramente importanti, valutassero l'operato di un sindaco soprattutto per le cose più consistenti, sì, quindi rilanciare una città, l'economia, le opere pubbliche e quant'altro. Detto questo, se mi è consentito, io 5 anni fa ho fatto un'altra cosa che ho continuato a fare anche questa volta, ovvero quella di praticamente prendere il budget che era nella mia disponibilità per il mio staff, il cerimoniale e quant'altro, insomma per capirci un po', la mia carta di credito in proporzione come quella che aveva Marino, che valeva 15.000 euro l'anno, e l'ho trasferita in buoni lavoro per dei voucher che abbiamo fatto per le persone, delle persone che erano in difficoltà. No, perché questo è un punto interessante, sui giornali è spiegato e lei l'ha detto, e cioè io mi sono riportato lo stipendio al livello precedente o raddoppiato rispetto al livello precedente quando avevo dimezzato. Perché? Perché quando incontro qualcuno in difficoltà, giovinazzo, ci saranno persone che hanno bisogno di qualcosa, posso avere la libertà di glielo dico così brutalmente, sì, di allungargli 10 euro, 20 euro, 30 euro, 50 euro. Sì, allora, però sono soldi pubblici quelli, cioè sono soldi dei suoi cittadini. Cioè, in realtà. Beh sì, sono soldi lei pagato dai cittadini. L'indennità, nel momento in cui il cittadino la trasferisce al sindaco, poi il sindaco ne fa quello che ne vuole, come fa qualunque funzionario pubblico. Ma detto questo, io ho citato appunto questa vicenda dei buoni lavoro per dire cosa? Che prima di tutto avevamo intuito già prima del reddito di inclusione o il reddito di dignità che poi ha fatto la Regione Puglia, che noi qualche cosa potevamo fare, anche se poi va detto che fra le buone intenzioni che la politica ci mette e le procedure che le leggi ti costringono a dover rispettare, c'è un'abnormità incredibile, tant'è vero che questi buoni lavoro, lei pensi, noi le cifre le abbiamo messe a disposizione a febbraio 2014, l'ultimo buono lavoro è stato affidato a luglio 2017 per via di tutti i 1000 passaggi burocratici. E quindi la domanda è: il cittadino che legittimamente aveva diritto a quelle risorse, con buoni lavori o meno, che aveva bisogno di quei 1000 euro perché erano voucher da 1000 euro, è normale che poi abbia dovuto aspettare 3 anni? Sindaco, però questo non ha a che fare con il fatto che lei poi invece abbia uno stipendio con il quale fa, la possiamo chiamare beneficenza nei confronti delle persone più disagiate. Ma ce la spiega, tra l'altro, cioè cosa ha fatto? Ci dica che cosa ha fatto di concreto, cioè ha fatto la spesa a qualcuno? Non faccio i nomi, assolutamente. No, i nomi no. Posso fare un elenco, diciamo, delle cose più importanti: è l'acquisto di farmaci, perché a suoi concittadini. Assolutamente, e ci sarebbero anche i farmacisti che potrebbero. Io ho letto di visite oculistiche per bambini. Anche, certo, è venuta una mamma, è venuta una signora che non mangiava carne da 3 mesi e le abbiamo fatto la spesa. Mm. Per dirgliene una, il mese però prossimo. Però capisci, sindaco, quanti abitanti ha Giovinazzo? 20.000. Capisce che se venissero 5.000 persone in difficoltà il suo stipendio non basterebbe. Cioè, poi avrebbe difficoltà ad aiutarli tutti. Lei fa comunque una scelta nel momento in cui uno dice io sono in difficoltà, no, scegli. Assolutamente, attenzione, c'è da fare una puntualizzazione, se mi date un minuto ci provo. Sì. Atteso che ci sono i servizi sociali e le normali, diciamo, i normali strumenti che vengono messi a disposizione, in un comune di 20.000 abitanti dove ci si conosce un po' tutti, poi uno riesce a conoscere meglio la storia e certe volte anche la geografia, diciamo così, delle persone. Quindi i casi a cui io faccio riferimento sono casi in cui tu conosci benissimo la realtà. Sai benissimo che anche voler attivare gli strumenti naturali, che sono quelli del contributo, del sussidio o quant'altro, ci sono dei tempi tecnici che purtroppo mal si conciliano. La burocrazia. Però lei la così burocrazia. Sindaco fa il benefattore, non è una funzione politica, nel senso che lei così è più un ruolo da benefattore che un ruolo da politico. Perché assolutamente nel momento. Sì, e sa perché? Glielo dico con tutta franchezza. Questo è il mio secondo mandato, io diciamo non mi devo ricandidare e credo che sia anche utile utilizzare parte delle mie risorse per fare qualcosa che sia a beneficio della città. Quindi io laddove posso, magari dando dei contributi, una specie di Robin Hood. Robin Hood toglieva a delle persone ai ricchi per dare ai poveri, lei io con soldi pubblici. È una scelta che faccio utilizzando le mie tasche, cerco di farlo nel rispetto di quella che è la mia sensibilità e delle persone che ho di fronte, e di farlo sempre con grande serenità, non pretendendo nulla in cambio, non avendo nessun condizionamento di nessun tipo, e semplicemente volendo stare un po' in più, un po' di più. No, e vabbè, poi sindaco, la cosa importante è che lei dice non lo faccio per cercare una rielezione, visto che sono al secondo mandato. Ma non mi posso manco ricandidare. Ma questa attività è apprezzata lì nel paese di Giovinazzo? Cioè, sono contenti i cittadini? Ma francamente sì, al netto dell'opposizione, che storicamente, voglio dire, deve fare l'opposizione, Per il resto io non ho registrato. Ah, vabbè, ma questo giustamente l'oste dice che il suo vino è anche buono, ma no, la prenda come una un'ironica battuta. La ringraziamo molto, sindaco Tommaso De Palma, perché ci ha spiegato questo modo di stare sul filo, insomma, un modus operandi, il suo stipendio anomalo che si è aumentato, perché prima l'aveva dimezzato, lo utilizza per dare la fettina di carne, il medicinale, la visita a chi non ce la fa. Guarda che prima del traffico c'è un ascoltatore, Stefano da Brescia, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Stefano, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Eccoci. A entrambi. Niente, io avevo chiamato dopo che avete parlato con quello che era in Germania, insomma, sì, il corrispondente, sì. E che ci vuole dire? Dei tedeschi e così, sì, dei parlamentari tedeschi, che effettivamente sarebbe un po' come quella degli italiani Futura. Futura, sì. Ecco, però non gli avete chiesto quanto guadagna un operaio in Germania. Più che in Italia, sicuramente. Beh, penso molto, parecchio, sì, di più. Penso, io non lo so esattamente, ma lui lo saprà sicuramente. Quindi il paragone, secondo me, va fatto su quello. E poi, scusate se posso appena un attimo, siccome parlano sempre anche di diritti acquisiti i nostri parlamentari, sì, no? Ho sentito spesso dire, quando mi sono candidato sapevo che avrei ottenuto il vitalizio, prima dicevano vitalizio, adesso c'è questa specie di misera pensione di 900 euro dopo 5 anni, poverini, che io magari dopo 44-45 anni prenderò quella lì, di lavoro. Io quando ho iniziato a lavorare nel 76 mi hanno detto tra 35 anni tu potrai andare in pensione. E poi gliel'hanno cambiata con la Fornero. Stefano, guardi, no, ma si è capito, insomma, il senso è che dobbiamo andare un attimo al traffico, abbiamo sforato di un paio di minuti, però si è capito il senso del suo intervento e la ringraziamo, Stefano. Ora il traffico, poi c'è un'incursione di un personaggio, vabbè, tra poco. Brum brum brum, c'è il traffico, Milan. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre, a Genova. Vi presenta I Funamboli. Com'è un parlamentare prenderà 800 euro con un solo mandato? Ma mi faccia il piacere, va! Ma c'è so sti puttana, vedete che non stiamo in Germania, stiamo in Italia. Eh no, invece è proprio così. D'ora in poi, cioè, un parlamentare della Repubblica di adesso che fa un mandato prenderà più o meno 800 euro a 65 anni. Caro ascoltatore, questa non è che ce la siamo inventata noi. Anzi, il nostro ascoltatore precedente lasciava quasi supporre che non si candiderà più nessuno. Esatto. Quindi da adesso bisognerà fare, capito, andarli a cercare i politici con l'alternino. Però noi abbiamo degli studi molto aperti. Qui alle 9:49 minuti siamo ai Funamboli, dunque accogliamo chiunque, e per questo abbiamo accolto anche un ascoltatore. Questa persona che tu hai fatto entrare non la conosco, non ho nemmeno capito bene. Un ascoltatore che ci è venuto. No, buongiorno a tutti, ascoltatori da Funamboli. No, sono Battista da Cavaglion Veronese. Ah, buongiorno, Battista. Salve. Allora, prima ho ascoltato anche quello che dicevano, quello come si chiama, l'Oscar Damiani. Cesare Damiano, ex ministro. Guarda, io te dico. Damiano. Damiani, sì, quello lì. Te dico nella mia esperienza che i politici vitalizi non se li toglie, perché i politici lavorano un giorno e poi hanno pensione per tutta la vita, invece parla altre persone. Il contrario, lavorano per tutta la vita e poi se va bene alla pensione per un giorno, quello prima di morire. È vero o non è vero? Mina, anche questa argentina, lo capisci? Milan e Gentili. Anzi, ormai, guardi, lascio dire, le persone normali la pensione la prendono per così poco tempo che ormai la pensione, le persone normali non vanno più a prenderla in posta, vanno a prenderla in chiesa dal prete che ti dà estrema unzione, perché sa che è l'ultimo giorno di vita, perché la prende troppo tardi, capisci? Mina. Milan. Mina, da oggi sei Mina. La prendi prima di andare in cielo, Gentili, capisci? Sì, anche tu. Ma sai cosa ti dico, Mina? Sì. Che io preferisco i politici che sta a casa a prendere vitalizio piuttosto di quei che va in Parlamento a fare leggi e a rovinare Italia. Oh. È vero o non è vero? Oh, come quei che hanno fatto la legge che si può sposare uomo con uomo e le chiamano unioni civili. Per me uomo che si sposa con uomo non è unione civile, è unione incivile. Ma cosa dice? Così. Su un po' di apertura. Già è contro natura uomo che si sposa con donna, figurati uomo con uomo, no? È tutto contro natura. Quello. Gentile, io non gentile. Ho niente. Gentile, anche a te, Mina. Scusa, Mina, stai buona. L'hai fatto entrare tu questo. Mina. Ma te l'ho detto, non so chi è. Io non ho niente contro omosessuati, ma se Dio voleva che nel mondo c'erano omosessuati, nel paradiso terrestre, non metteva Adamo ed Eva, metteva Adamo e Cristiano Malgioglio. È vero o non è vero? Gentile, Mina, lasciami dirlo. Omosessuali. Lasciami terminare il mio pensiero, Mina. Se stai a guardare il capello anche tu. Io non credo più ai politici, dice che sono capaci di cambiare le cose, anche quella di Roma, come si chiama? La Razzi, no? È la moglie del Razzi. Virginia Razzi. È quella Razzi, no? Allora dice che vuole cambiare. Razzi. È la Razzi, è la moglie del Razzi. Adesso è tutto chiaro. Mina, dizia che voleva cambiare l'Italia, per il momento sta solo cambiando assessori e poi e dice sempre è colpa del governo precedente, il problema è se è colpa del governo precedente, io penso che il prossimo sindaco di Roma dice è colpa di Romolo e Remo, perché è sempre colpa del governo precedente. Su Mina, questo gentile, devo dire, guardi. Siamo in mano, lasciami dire, il pensiero di uno, no, del Cavagnon, siamo in mano ai dementi, come quello della Corea, come si chiama, il Kim Big-jin, come si chiama? Kim Jong-un. Senta, Kim però Jong-un. Battista, se ma deve venire qui, si prepari un attimo. Ma Kim Jong-un. Kim Jong-un, quello che si chiama. Kim Jong-un, ma adesso Kim Jong-un. Kim Jong-un. Quello che si diverte a lanciare i missili, no? Capisci? Sì. Lancia un missile, sembra che sta facendo il divertimento, ride come un matto, che poi fa finire tutti in acqua i missili, no? Nell'oceano, che sta distruggendo tutti i pesci, che poi dovrà scappare, perché se continua a buttare i missili nell'oceano e uccide i pesci, poi non si trova contro il Trump, si trova contro i vegani animalisti, che è il peggio della bomba atomica. Al Pin Pin Zin, come si chiama? Ma Kim Jong-un, ma chi è Gentile? Mi chiamo Gentili. Lasciami dire, Mina, prevaricatore comunista, anche alla Gentili, prevaricatia, anche a te, no? Respiri. Poi, secondo me, lasciami dire, non è vero che Kim Jong-un ha la bomba atomica, sì. Non è capace di costruirla, non ha la tecnologia minima per fare le cose, basta guardare le rampe di lancio dei missili, che ogni volta che fa partire il missile tutta la rampa si distrugge, no? Capisci che non ha la tecnologia minima? Allora io dico, Kim BG non ha la tecnologia minima per costruire la rampa di lancio che sta in piedi e vuoi far credere che ha le tecnologie per mandare cose nucleari? Allora io ti dico, Kim BG, dare tan cretino a Battista. Allora, prima chiama qualche muratore bergamasco a costruire una rampa di lancio che sta in piedi e poi, caso mai, mandi i missili. È vero o non è vero? Vabbè, dice lei Battista. Muratori bergamaschi in Corea del Nord. Guarda, io dico sta cosa a Kim BG. Ci sono cose che danno anche più soddisfazione che lanciare i missili. E costano anche meno, è la più soddisfazione anche fisica. Se vuoi qualche consiglio vieni da me che sono esperto. Parò de Battista da Cavaglion veronese. Direi che ogni giorno vorrei un ascoltatore così. Io la lingua di questa persona non la capisco bene. Poi mi tradurrai cosa ha detto. Leonardo Manera, eccolo qua. Allora, buongiorno a tutti i funamboli. Buongiorno. Benvenuti anche da parte mia, insomma. Certo. Adesso svestiti, cioè no, non nel senso svestiti, ma svestiti di Battista e... E sono qui. Ti sono piaciuti i vitalizi, eh? Beh, un tema che insomma crea sempre tante discussioni, tanti dibattiti. Ma i comici lo prendono il vitalizio? Il problema è che i comici non prenderanno mai neanche la pensione, perché noi abbiamo la pensione con l'Empals ed sì, è una cosa conosco. Assolutamente fumosa, perché è confluita nell'INPS, però non si sa ancora a chi versare esattamente i contributi e poi ci vogliono, se non sbaglio, 40.000 contributi versati per avere la pensione nello spettacolo, che sono tantissimi per chi fa. Lo so. Questo io sta dicendo che tu andrai avanti 4.000. Fino agli 80, 85, 90 anni a fare... Ma è un problema vero per chi fa... Io la soluzione ce l'ho, tu ti trasferisci a Giovinazzo dove c'è il sindaco, esatto. E poi vai lì a chiedergli la carne, le visite oculistiche e così via, così vi ha risolto. Si potrebbe fare così. Allora, siamo in conclusione della prima ora dei funamboli, scriveteci funamboli@radio24.it. Oggi avremo anche il funambolo del giorno, come sempre quando rientriamo alle 10, avremo la campagna defurbizziamoci con il primo ascoltatore che ci racconterà una roba straordinaria. Ci sono anche gli ascoltatori che ci chiamano all'800240024. Francesco da Padova, un attimo di pazienza, ti recuperiamo nella seconda ora. State con noi, giornale radio, rientriamo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I funamboli. Armando, che scriveva la storia, annotò sul suo taccuino 13 ore e 7 minuti. Il mio record italiano rimase imbattuto per 25 anni. 13 ore e 7 minuti. Chissà per fare cosa, cara Veronica. Non quello che sto pensando io. No, assolutamente no. Sarebbe un record, Leonardo, dal quale mi congratulo con te. Non era Sting. Non era Sting, no. 13 ore e 7 minuti. Partiamo da questo dato per raccontare la storia davvero di un funambolo, raccontare la storia che oggi ci farà un po' così nuotare, idealmente storia nuotare. Acquatica. Una storia acquatica. Il funambolo del giorno. Il funambolo di oggi è Leo Callone, che salutiamo, e con noi. Buongiorno Leo, come stai? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Leo. Intanto si dichiari età? 72 anni. Portati benissimo, mi sembra anche. Ma non lo vedi, cosa ne sai? Si sente che ha un'età, devo dire, ma portata bene. E poi soprattutto questi, vogliamo svelare questi 13 ore e quanti 7 minuti, a che cosa si riferisce? 13 ore e 7 minuti nel 1981 ho attraversato la Manica da Dover a Calais. Sono a nuoto. 39 km in linea d'aria, però per il gioco delle correnti e delle maree ho dovuto percorrere 60 km a una temperatura media di 15-16 gradi. Senza interruzione? Come? Senza nessuna interruzione? No, niente, diciamo che ogni ora ci si ferma senza avere supporti esterni, senza appoggiarsi alla barca. Ci si può alimentare prendendo alimenti liquidi, chiaramente, reintegrando quelle 400-500 calorie che il dispendio che di energia, se vuoi per l'acqua fredda, vuoi per lo sforzo fisico. Certo. Quindi si mangia in mezzo al mare. Insomma, Leo Callone, non abbiamo detto una cosa particolare, l'ha fatto a nuoto, cioè l'elemento fondamentale, perché non in barca, non l'abbiamo specificato, non di corsa, ma chissà a cosa nuoto. Stavano pensando, camminando sulle acque. Ma tra l'altro mi viene subito una cosa che le chiedo, cioè lei mangiava quando era in acqua, quindi come faceva a mettere insieme questo col fatto che bisogna digerire, aspettare almeno 2-3 ore prima di... Ah, un bambino piccolo, Leonardo, se sei capito, caro Leo Callone. Si può fare. No, tra l'altro, la storia di Leo Callone, che non è solo quella di attraversare la Manica, ma quella di aver percorso 100.000 chilometri a nuoto, è diventata un film vero e proprio. Abbiamo sentito il trailer iniziale, 100 milioni di bracciate, un film della regista Donatella Cervi, parteciperà tra l'altro a importanti festival dello sport a Milano dal 15 al 20 novembre, a Buenos Aires dal 6 al 10 ottobre, insomma ne avete fatto un documentario. Ma perché Leo Callone, quanti laghi ha attraversato? In genere laghi oltre che mari? Ma ho attraversato i laghi della Lombardia, tutti. Poi ho attraversato dei laghi in Guatemala, ho attraversato dei laghi in Olanda, diciamo un po' in tutte le parti del mondo, dall'Europa a Sud America, al Medio Oriente, a Nord Africa, insomma. Ma lo fa perché? Ma perché lo fa? Ma cioè io da bambino vivevo a Mandello in riva al lago, e sono in una villetta in riva al lago e vedevo i canottieri della Moto Guzzi che erano campioni olimpionici. Poi c'era un meeting internazionale che tutti gli anni facevano la traversata Onno Mandello, e venivano tutti i campioni dall'Europa, e io da bambino li guardavo dal terrazzo di casa mia. Mi sono innamorato dal nuoto. Ma quanti anni ha cominciato a nuotare? La prima gara l'ho disputata che non avevo ancora 11 anni. Mi hanno tesserato per la canottieri Moto Guzzi nel 1956, e da lì è partita la mia carriera. Ho iniziato con le gare sul lago. E poi è diventata importanti. Però dalle gare sono tra diventate imprese vere e proprie. Nuotare nel lago, io sono originario del lago di Garda, che lei ha attraversato, giusto Calloni? Sì. Io sono di Salò sul lago di Garda, ho imparato a nuotare nel lago, e nuotare nel lago è anche un po' più faticoso, no, che nuotare nel mare. Sì, l'acqua è un faticoso. Po' più fredda, non c'è il sale che ti tiene a galla. Insomma, nel mare è tutta un'altra cosa, perché si galleggia di più, la temperatura è più mite, e ci sono tanti fattori determinanti perché in pratica nel lago si fa fatica a nuotare e si fa fatica a galleggiare. Però cui... il lago no. No, però io ho una domanda, una curiosità. Caro Callone, sì. Lei ha attraversato anche il lago di Loch Ness. Ora lei capisce che noi vogliamo arrivare ad una sola domanda. Adesso ce lo deve dire qualcuno, finalmente ce lo può dire qualcuno. A livello empirico proprio. Il mostro di Loch Ness esiste? Io il mostro di Loch Ness non l'ho visto. Non l'ha visto. Ma com'è però sto lago di Loch Ness? Ho nuotato sempre temendo di incontrare. Ti credo, ecco, vede. Ma la paura era tanta, sì. Molta, perché c'è un'acqua che è nerissima e quando nuoti, insomma, è sempre nuvoloso, sempre mosso, quest'acqua nera che mi incute terrore e ti fa sempre pensare di fare qualche spiacevole incontro. Sarà molto freddo. Un rendezvous non previsto. No, ma tra l'altro ricordiamo un uomo che ha questi record: 18 titoli italiani, 13 maratoni internazionali, 5 medaglie, 50 titoli regionali. Cioè stiamo parlando di una persona che nuota per passione, per immagino anche per sfidare un po' le difficoltà della vita, Callone, o no? Ma sì, vabbè, innanzitutto io ho ancora la mia età nuoto, perché per me il nuoto è un divertimento. Cioè ho dovuto nuotare da professionista per poter effettuare certe imprese, perché richiedeva un allenamento particolare di ore e ore al giorno, per cui ho dovuto fare il professionista pur non essendo un professionista. E poi però mi ha aiutato anche nella vita, perché purtroppo da quando avevo 10 anni la mia vita ha subito parecchie c'è stata la disgrazia di mio padre, che si è ammazzato con la moto, faceva collaudatore, e lì io avevo promesso a lui che avrei tentato sicuramente di diventare un campione, e ho mantenuto la mia promessa nei confronti di mio papà. Poi vabbè, andando avanti nella vita, ho perso mio figlio in un incidente stradale, e da lì è subentrata il fattore sociale. Ho abbandonato, diciamo, quello che era la vittoria per la medaglia, e mi sono dedicato ancora alla solidarietà. No, questo vogliamo dirlo, lo vogliamo dire tra un attimo, dopo le informazioni sul traffico, perché c'è questa, ci sono anche questi aspetti, insomma, umani della storia di Leo Callone, che appunto ha perso un figlio, e da allora credo devolve tutto quello che guadagna anche con queste imprese, tutto quello, ha una missione in Guatemala, ma ce lo racconta tra un attimo. Leo Callone è il nostro funambolo che nuota in tutti i laghi del mondo. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta i funamboli. Siamo alle 16, alle anzessi, alle 16, guarda. È il jet lag. Siamo alle 10 e 16 minuti. Basta guardare il ciuffo dei tuoi capelli per capire come ti senti. Oh, ancora, io il pettine non so cosa sia, è inutile. Anche Leonardo non sa cosa sia il pettine, peraltro. Ma io li ho tagliati a zero perché stavo diventando come te, ho preferito evitare. Prima di ridurti in questo stato. Prima di ridurmi in quello stato. Vi ricordate il film Tutti pazzi per Mary? Eccolo. Un farabutto, due farabutti. La storia di Leo Callone. Leo Callone è diventata un film, questa storia. È l'uomo da 100 milioni di bracciate. Ma lei le ha contate? Cioè, no, ha fatto un calcolo a spanne di quante bracciate ha dato Callone nella vita? Sono metri a nuoto, per cui ne abbiamo dedotto che più o meno corrispondono a 100 milioni di bracciate. 100 ecco, milioni di bracciate. Lei mai... un metro bracciata equivale a 100 milioni di chilometri di bracciata per 100.000 chilometri. 100 milioni di metri. E in tutte queste bracciate le è mai capitato qualche inconveniente? Banalmente di essere morso da un pesciolino nei laghi, da un luccio, qualche cosa che ha creato difficoltà, diciamo? No, beh, mi sono trovato in situazioni piuttosto pericolose per via del maltempo, trombe d'aria, mare mosso, e abbiamo rischiato parecchie volte di lasciarci la pelle, però incontri spiacevoli non ne ho mai fatto, tranne Loch Ness. No, non si sa. No, le meduse restano a noi che andiamo al mare normalmente così a fare i bagnanti, ai lucci, queste cose. Invece lui tranquillo nelle sue 100.000 bracciate. 100 milioni. 100 milioni, scusate. No, le meduse mi hanno pizzicato parecchie volte. Vabbè, quello sì. No, quello... ricordiamo, io non voglio buttare in dramma, però secondo me anche dai drammi possono nascere delle cose positive, nel senso che lei nel 2000 appunto ha perso un figlio, però ha deciso di, come dire, trasformare tutto questo immane dolore, immagino, in un'opportunità. Ha deciso di devolvere quelli che sono i suoi premi, a che cosa e a chi? Allora, io dopo un anno che era morto mio figlio avevo smesso di nuotare e ho avuto un incontro al cimitero con un missionario dal mio paese che dirige la missione dei padri Comboniani a Città del Guatemala, e lui con delle parole semplici mi ha detto questo: senti, se anche tu non vuoi più nuotare per la gloria, tanto ormai la tua carriera l'hai fatta, perché non metti a frutto le tue capacità e magari puoi raccogliere dei fondi, fare una fondazione a nome di tuo figlio e dare una mano a noi nella missione, che abbiamo tanti bambini da aiutare e abbiamo tante cose da fare. Detto questo, mi sono convinto a riprendere, e poi alla fine tutto è sfociato nel 2012 con la costruzione di un ospedale e di una chiesa dedicate a mio figlio. Mi sembra un qualcosa molto molto molto importante, ecco. Leo, non solo importante, ma questo gusto per le sfide, no? Perché l'acqua l'ha sfidata in tanti modi. È stato anche un modo di sfidare la vita, cioè di imparare a prendere le sfide della vita con un approccio diverso. Cioè, le è servito anche in termini di... Sì, allora, per me in tutti i frangenti tragici della mia vita è stata l'ancora di salvezza, perché mi sono aggrappato al nuoto e sono riuscito a vincere la mala sorte, se vogliamo chiamarla così. Poi, senza dimenticare che io nel 2012, dalla sera alla mattina, mi sono trovato con due tumori, per cui anche lì ho dovuto stare inattivo per qualche anno. Però poi, alla fine, con il nuoto mi sono rimesso in piedi e non so se è stato quello che mi ha fatto sconfiggere il male, però sta di fatto che sono guarito. E sarà anche diventato un bellissimo uomo, perché nuotando molto avrà acquisito un fisico scultoreo. Esatto. No, ma guarda, io ho visto due foto sul Corriere della Sera, 72 anni portati e da voi foto. Voi due sembrate i nonni, insomma. Io veramente sono pieno d'acciacchi, cioè, in confronto. No, ma Leo Callone, secondo me, ci ha raccontato una storia straordinaria, anche col suo incedere molto riflessione dialettale. Leo Callone ha girato tutto il mondo, ma ha mantenuto, diciamo, questo accento tra lecchese e bergamasco, molto tipico e comasco. Comunque, certo. Noi la ringraziamo davvero. Ricordiamo, 100 milioni di bracciate, regia di Donatella Cervi, è un film, andrà all'International Festival di Milano dello Sport e al Buenos Aires Sport Film Festival a ottobre. Oh, speriamo, magari vincerà anche dei premi come film, noi glielo auguriamo. Io mi rammarico soltanto che non possa nuotare nel lago di Bracciano, perché mi sa che tra un po' l'acqua non c'è più. Questo si tuffa su una roccia. Bisogna farlo proprio a breve, perché stiamo toccando il fondo lì. Va bene, noi davvero la ringraziamo, era il nostro funambolo del giorno, i funamboli. Tra l'altro, se avete una storia funambolica e volete sottoporcela, potete scriverci sia via mail funamboli@radio24.it, ma anche utilizzando i nostri contatti WhatsApp al 349-238-6666. Noi controlliamo tutto, la nostra redazione. Sempre o camminate su una fune fino alla redazione di Radio 24, arrivate qui e ci raccontate tutto. Noi siamo qui. Siamo. Allora, guarda quanti ascoltatori, cara Veronica, caro Leonardo, c'è Andrea che ci chiama da Rovigo, abbiamo trattato tanti temi anche nella prima parte. Andrea, che ci vuole dire lei? Buongiorno, buongiorno a tutti. Io volevo intervenire riguardo il numero chiuso delle università. Sì. Gli esami a numero chiuso. Ieri hanno fatto quello di medicina e odontoiatria. Sì. Io lavoro nell'ambito dell'odontoiatria e posso dirvi che, per quello che è la mia esperienza, il numero chiuso serve solo a fare in modo che chi non riesce ad entrare qui in Italia va in Spagna o in Portogallo, dove fanno delle cittadine apposta per gli italiani e poi prendono la laurea là. chi può permetterselo. È vero, c'è questo fenomeno di chi va anche in Romania, di chi va. Come abbiamo sentito per TG24, poi noi non abbiamo i soldi per pagare i docenti competenti nelle nostre università. Quindi, insomma, lei è contro il numero chiuso? Cioè, se dice il numero chiuso serve solo a farli emigrare, vuol dire che è contro il numero chiuso? Sì, assolutamente. Sì, non ha senso, non è che sono contro o pro, non ha senso il numero chiuso. Secondo me converrebbe puntare sulle nostre università. Però non ha ma senso. Ma secondo lei anche se poi si resta senza lavoro dopo? Cioè se ci sono troppi laureati che poi restano a spasso? Il problema dei troppi laureati, se noi abbiamo tanti iscritti e abbiamo i soldi per pagare dei docenti competenti, formiamo una classe di professionisti competenti che qui in Italia o all'estero dovrebbero lavorare. Se viene premiata la competenza, qui in Italia non molto, e di conseguenza si tratta di capire se vogliamo premiare la competenza oppure no, o garantire che i figli dei medici, degli odontoiatri, continuino nello studio di papi. La dinastia. Va bene, Andrea, la ringraziamo per questo suo intervento. Su questo stesso tema credo che ci sia un altro Andrea, questa volta da Piacenza. Andiamo a Piacenza. Tutti buongiorno. Tutti Andrea. Oggi è il giorno degli Andrea. Ciao a tutti. Ciao Andrea. Andrea Manera, Andrea Gentili e Andrea Mina. Vabbè, Andrea, dica. Chiamatemi Andrea. Dunque, io sono sulla sponda opposta, cioè più che essere favorevole al numero chiuso, io sono favorevole al numero serio. Non è possibile, per me ci devono essere al massimo 30-35 università e 10-15 corsi di laurea, non si può che non possano laurearsi tutti, deve studiare solo chi è capace, chi non è capace vada a lavorare, anche perché altrimenti non c'è più l'idraulico, non c'è più il fabbro, non c'è più il falegname, non si sta parlando di essere più o meno intelligenti. Si sta parlando di fare lavori nobilissimi che non necessariamente essere mantenuti fino a 35-37 anni dalle famiglie a fare una mazza, perché questo è, per poi essere laureati in scienze del nulla applicato a niente e non sapere che cosa vuol, fare. Che vuol dire? Aveva in mente mica scienze politiche. Non pensava mica a te, Andrea. No. Lei ha detto scienze del nulla. No, stava dicendo scienze politiche. Ce l'aveva palesemente con te. Andrea, ma tu cosa fai? Io faccio il mio lavoro principale è l'ingegnere, anche se poi mi sono venduto all'economia. Quindi sono direttore commerciale di un'azienda. Mercenario. Scherzo, Andrea. Fallo lavorare seriamente. Scherzo, lui. Andrea, però secondo me c'è anche una specie di selezione naturale, nel senso che io studiavo giurisprudenza, poi ho capito che preferivo fare un altro tipo di lavoro e dopo 2 anni di giurisprudenza mi sono dedicato ad altro, senza peraltro farmi mantenere dai miei fino a 35 anni. Magari si però può effettivamente anche... giurisprudenza non c'è. Esiste il numero chiuso a quelli che si chiudono da soli, invece, vedi? Guardate, ma io vi dico anche questo: quando io sono entrato in ingegneria, abbiamo fatto un test che non era vincolante, però ti dicevano: siccome siete in più di 1000 e non vi laureerete tutti in ingegneria, anzi, più della metà non ce la faranno. In realtà arrivavamo in fondo in 60 in corso. Voi fate questo test. Se arrivate dalla 400ª posizione in su, noi vi sconsigliamo di cominciare. Bene. Io devo dire che dei 60 arrivati in fondo, quasi tutti eravamo nei primi 100. Ma dovrebbe essere così, cioè se c'è una selezione poi dura per formare delle competenze valide all'università, è chiaro che se uno, come dire, non ha le competenze, non studia, non è portato, verrà fermato agli esami. Ecco, l'università non deve essere un lascia passare per Ale, tutti, la no? teoria di Andrea, credo di aver capito, è che sei predisposto o non predisposto a studiare. Sì. Questo è un po' il senso. Quindi lui dice in qualche modo in i test servono a capire se sei predisposto, quindi la predisposizione non si apprende in corsa. E qui entra la questione della qualità dei test, del fatto che il 35% riesce a copiare, quindi il fatto che quel test in realtà potrebbe anche non poi essere una fotografia precisa. È alterato. Vogliamo togliere quei begli anni di fuori corso a pascolare la città, andare alle feste universitarie, provarci con le ragazze, è un peccato. La famosa aula fumo della facoltà di scienze politiche in via Conservatorio a Milano, da me poi pochissimo frequentata, devo un dire. Bel annetto sabbatico durante, che dice adesso ho bisogno di ritrovare me stesso. Esatto, e poi l'università. E infatti abbiamo una generazione poi di rammolliti, eccolo qua, il trombone che esce fuori, Pasquale da Catanzaro, buongiorno Pasquale. Buongiorno. Sempre di generazione vorrei parlare, ma non di trambolliti, bensì di quelli che sorreggono le pensioni che prendono i signori con forma retributiva. Sì. Volevo proprio dire questo, nel dibattito sulle pensioni, sulla legge Richetti, non si sentono parlare tutti quei ragazzi che prendono dalle 400 alle 700 euro al mese, laureati in qualche call center, che con i loro contributi sostengono quelle pensioni retributive. Bravo. Quindi sarebbe ora di capire che se, beh, io credo che questa generazione sia addormentata, non mi chiedete per quale motivo, perché altrimenti sarebbe necessaria una rivoluzione, una vera rivoluzione. Guardi, il vero patto sociale, il vero patto sociale, beh, adesso non la metterei sulla vergogna di un pensionato che ha lavorato tutta la vita, ha pagato le tasse, eccetera, però il vero patto di equità sociale trasversale tra generazioni dovrebbe essere questo, cioè capire che ci sono tanti come Pasquale da Catanzaro che lavorano a 400 euro, lavori precari, difficoltà, e visto che siamo un sistema con parti di pagamento delle pensioni, sono loro, con i loro contributi versati oggi, che pagano le pensioni dell'INPS, di chi riceve la pensione. Poi il sistema è un po' paradossale, perché poi i giovani che non hanno soldi sono costretti a vivere con le pensioni dei nonni spesso, e quindi diventa un cane che si morde la coda. E poi finiscono prima o poi. Sono sempre gli stessi soldi che girano. Che tornano, che passano di generazione in generazione, con la differenza che il giovane però è costretto ad umiliarsi e a dire: non ho ancora un lavoro, devo chiedere quelli di nonno. Nonno, nemmeno allora, papà. Il giovane paga la pensione all'anziano, l'anziano ridà i soldi al giovane che poi glieli ridà. In genere succede, in realtà, come la catena alimentare, capito? Succede, guardate che voi ridete, ma questo nelle famiglie succede. Quanti nipoti vivono grazie all'aiuto e al contributo del nonno che si è fatto un mazzo così. E sono io da anziano che do il contributo, la paghetta al mio nipote. Ecco, e come quanto gli dai? Gli do 10 euro al mese. Nonno Leo, mi allunghi 50 euro che oggi pomeriggio devo fare delle commissioni. Una Veronica, mi piace, una bella ragazza gradevole. Allora, con nonno Leonardo, con Veronica Gentile, con Alessandro Milan, ci ritroviamo tra un attimo dopo le notizie sulla borsa. Attenzione, perché oggi abbiamo il primo ascoltatore che ha aderito alla nostra campagna che ci lancia Manera. La campagna è: defurbizziamoci. Ebbene sì, tra poco. I funamboli. Grazie mille per la stupenda trasmissione che state mettendo su. Bravissimi. I parlamentari come i Novax. Importante intervenire, ma con moderazione. Allora, caro Milan, tu che hai la laurea in scienze politiche, ma hai distrutto le università come il buon Mario Capanna? Perché mi ricordo nel 68, quando intervenivamo noi, scappavano come conigli. Ah, ragazzi, Veronica, la finisci di ballare che siamo in diretta su Facebook? Senti, ti ho umiliato pubblicamente postandoti su Instagram mentre balli e ti dimeni come una lap dance. Però, c'ho già il fiatone. Bravo l'imitatore. L'imitatore di Mario Capanna, anche se ce l'avevo un po' nasale, sembrava un po' quelli dell'Istituto Luce di una volta, parlava un po' così, faceva il Capanna tipo Istituto Luce. Effettivamente così, insomma, è che dobbiamo dire. Però vabbè, Veronica qua balla. Ho la musica nel sangue. Dai, senti un po'. Leo alla batteria, io stavo schitarrando, Veronica al sax e la via! Verità è che volevamo fare un gruppo musicale, era partita così l'idea dei funamboli. Poi abbiamo ripiegato. Poi abbiamo detto vabbè, a questo punto dai. Guarda, vi ricordate, i Commitments hanno iniziato così, no? Hanno iniziato in un bar di periferia e poi sono diventati un film. Quindi la mattina in radio e la notte ci vediamo a provare, ragazzi. Esatto. Mettiamo poi il nostro Peter Bescapè alpino in regia al timpano. Il nostro Lorenzo Nespoli al basso, la nostra Elisabetta Fusconi, che è la svizzera, quindi la manager, è precisa, ci fa i contratti. Donne di Italia soldate per fare le gruppi a questi due davanti a me. E Elisa Pancaldi, corista, ma da sola. Ma così, l'unica corista in un coro di uno. Le canzoni le abbiamo già. Si è offerta, attenzione, Elisa Pancaldi si è offerta ufficialmente in questo momento come gruppi. Prima. Una prima gruppi l'abbiamo trovata. Può essere un modo diversamente beneficenza, insomma. Signori, questo è il momento alle 10.38 in cui vogliamo lanciare questa campagna, rilanciare, che abbiamo lanciato già da qualche giorno, e invitiamo tutti gli ascoltatori a scriverci. Dovete scrivere una mail, se volete, via mail funamboli@radio24.it, oppure scriveteci WhatsApp 349-238-6666. Vi vogliamo far raccontare, tranquilli, non vi denunciamo all'autorità, no, poi pubblica. Diciamo anche che il fine di questa campagna non è elogiare i furbi, no, ma è proprio il contrario. No, esatto. E dire ci autodenunciamo, diciamo anche simpaticamente, per delle cose anche, insomma, non gravi. E poi comunque, ragazzi, è una confessione, una confidenza tra amici. Non vi sente nessuno, uno ogni tanto può raccontare, no? Così. Dovete raccontare quella cosa volta intima in tra cui di avete noi. Fatto una furba, una furbizia, un qualcosa di cui magari vi vergognate un pochettino. Defurbizziamoci. Del resto è anche un modo di testare il vostro tasso di italianità, capito? L'italianità che c'è nel sangue, anche lo Ius Soli, che se ne parla tanto. Il modo migliore per capirlo è quante furbate avete fatto. Quindi siete idonei o no ad integrarvi? E allora, noi abbiamo il primo ascoltatore, lo ringraziamo tantissimo. Ci ha scritto il primo giorno, si tratta di Luca. Non diciamo il cognome perché poi non so se quello che ci sta per raccontare è andato in prescrizione. Quindi Luca, buongiorno. Buongiorno a voi. Grande funambolo. Allora, che hai combinato tu? No, nel... io spero davvero sia andato in prescrizione, perché vabbè, comunque sono passati 20 anni. Ecco, comunque. Adesso già terrorizziamo le persone. Ma noi verremo a trovarti e a portarti le arance. Raccontaci. Luca, abbiamo già passato i tuoi dati alle autorità competenti. Ma forza. Che bella cosa. Allora, vabbè. Una soffiata. No, dicevo, e scrivevo. Sì. Beh, metà anni 90, quindi prescrizione piena. Concerto dei Red Hot Chili Peppers al Forum di Assago. Oh. Roba seria. Biglietti esauriti da mesi, decenni, non se ne trovavano più. E quindi che hai fatto? Internet non li rivendeva. Allora cosa ho fatto? Vado dai carabinieri e dico ho smarrito il portafogli, me l'hanno rubato. Cosa c'era dentro? Il mio bancomat, la carta d'identità, la patente e un biglietto per i negozi di Peppers. Standing ovation. Che okay, ovviamente non avevi comprato. E che succede? Niente, mi sono presentato alla biglietteria del forum con la denuncia dei carabinieri e mi hanno fatto passare. Questa è una furbizia di una creatività di altissimi livelli. Io rido, e quindi sei entrato allo stadio e via così, insomma. Ma sì, ma io solo che penso che ci sia stata una... Eccola sotto, che vi devo dire. Ma dai! Lievemente fan, proprio. Senti. Ma comunque il concerto, comunque penso che ci sia stato un karma, perché all'epoca John Frusciante era perso come un copertone, non teneva in mano la chitarra, quindi è stato un concerto pessimo, una roba bruttissima. Però il karma per te, ma la nemesi è arrivata, il problema, tutti gli altri 14.000 erano lì e per colpa mia si sono beccati un concerto. Lo vedi che allora le furbizie vengono fatte pagare a tutti. Luca, poi? Ma raccontaci un po', ma tu, cioè, nel senso, hai detto proprio la faccio questa, non ti sei vergognato un attimo? Sei andato dai carabinieri? Ma non mi sono vergognato di niente, cioè, ho la faccia con la riga in mezzo, capito? Quindi, questa parafrasi per l'espressione che non si può usare in radio mi sarà utile. Grazie, Luca. I carabinieri hanno subodorato qualcosa o hanno creduto subito a quello che gli ha raccontato? No, ci hanno creduto. Guarda, io non lo so, perché all'epoca abitavo in una cittadina piccola e non ero un personaggio sconosciuto, quindi se hanno anche subodorato, Dio mio, hanno detto vediamo se lo beccano a Milano o se lo dobbiamo beccare noi, così ci divertiamo un po'. Mi è andata bene a me, è andata bene a loro. Quindi è riconosciuto, quindi hai utilizzato un po' anche la tua posizione, quindi oltre a furbata anche abuso di potere. Questo no, conosciuto per altre furbatine. Insomma, abbiamo un delinquente qui. Ragazzi, tranquilli. Cioè, avevo 20 anni, adesso ne ho 40 e passa, quindi ho smesso. Hai smesso. Però insomma, Luca, non sapendo come entrare al concerto dei Red Hot, dice di aver perso il portafoglio, va dai carabinieri, dice avevo tra le altre cose un biglietto appena comprato dei Red Hot Chili Peppers e così entra a vedere il concerto. Adesso speriamo che altre persone non prendano l'esempio di Luca andando a fare tutte denunce ai carabinieri. Il dramma è che io ho già introiettato il modello e so già che mi toccherà farlo, cioè proprio sarà più forte di me. No, attenzione, perché iniziano subito: plastificate un tesserino con scritta autorità e ti fanno entrare a tutti i concerti. No, cari ascoltatori, non cominciamo così. Diciamo che noi vogliamo il contrario, noi non vorremmo furbizzarci, no, per favore. Vorremmo raccontare delle furberie per poi dire che anche Luca è stato defurbizzato. Ebbene sì. Io su Luca ho dei dubbi grossi, perché sentendo il soggetto, secondo me che sia stato defurbizzato, non lo so. Sì, secondo me non ci ha raccontato la peggiore della sua vita. Quando diceva ero conosciuto, ero già conosciuto in città. Per altre cose. Nel paesino, i carabinieri o lo prendiamo qui o a Milano. Che vuol dire questa? Non ho voluto indagare, caro Luca. Però invitiamo anche altre persone a scriverci, a raccontarci i vostri episodi per essere defurbizzati qui da noi a Funamboli. Il risultato rischierà di essere il contrario, una sorta di master in furbizia creativa. Comunque scriveteci al 349-238-6666 oppure via mail a funamboli@radio24.it. Tra l'altro la mail straordinaria di Luca si concludeva così, e quindi mi sono presentato con il mio biglietto denuncia e ragazzi, give it away. Allora, si è materializzato anche il nostro Michelino, capo dei tecnici. Non so se ci vuole consegnare una lettera di licenziamento. No, è tutto a posto? Ah, possiamo andare avanti. Va bene. Quando entra lui in studio, di solito la cosa è preoccupante. Mi sa che è stato per il Red Hot che è corso. Per il Red Hot, è corso per il Red Hot. Allora, andiamo al traffico, signori. Poi l'ultima parte della terza puntata dei Funamboli. Siamo qui. Manda il traffico. Traffico, traffico, traffico. 57esimo Salone Nautico. Dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta i Funamboli. Allora, signori, siamo qui alle 10:46 minuti. Cara Veronica, guarda che c'è un altro ascoltatore che è Luigi da Pisa. Chissà che cosa ci vuole dire nella nostra I Funamboli. Caro Luigi, buongiorno. Buongiorno, Luigi. Buongiorno a voi. Eccoci. Quello che voglio dire, ma come mai non sapete rispondere ai vari onorevoli che contestano il vitalizio dicendo che poi bisogna toccare quello degli operai? Sono due casse completamente diverse. No, gli operai versano i contributi per 40 anni e sono contributi INPS. Mentre i loro non sono contributi INPS, ma sono, sono una cosa diversa. No, ma Cesare Damiano dice: attenzione, se voi volete rivedere i vitalizi pregressi dei parlamentari, allora, visto che dicono tutti, devono essere considerati come tutti i cittadini, attenzione, perché così allora si apre il fronte di poter toccare i diritti pregressi anche di tutti i cittadini. No? Ma questa è un'autodifesa del non toccarsi. Anche secondo me, quello però che dicevamo infatti anche prima. Anche secondo me, però, è la posizione opinabile dell'onorevole. Prima dicevo, Luigi, infatti, che la gente non ci crede più a questa argomentazione proprio per questo motivo, perché si è persa la fiducia nel fatto che loro dicano le cose in buona fede. Infatti, io spero soltanto una cosa: che i vari elettori italiani, tutto il popolo italiano, tenga presente quando si va a votare di cosa faranno in questa. Ma vede, caro Luigi, lei ha colto perfettamente il senso. Noi dobbiamo, come dire, ospitare tutte le varie posizioni. Lei ha ascoltato l'opinione di Cesare Damiano e si è fatto un'idea contraria. Questo, no, è il bello, come dire, è il ruolo nostro, no? Poi noi, anche noi, Veronica, abbiamo le nostre idee, le diciamo in totale libertà. Comunque ti ringrazio, Milan. Seguo da quando grazie facevi i reportage. Grazie Luigi. Adesso sto facevi con anche i reportage, capisci? No, però noi, cara Veronica, abbiamo uno scoop. Ha detto reportage, abbiamo uno scoop. Allora ne hai fatto un altro, dimmi, che hai tirato fuori? Per concludere fuori? Qua a Funamboli la puntata di oggi abbiamo uno scoop, perché sai che c'è questa pubblicità di cui si è parlato tantissimo, con grande gioia della stessa Bondi Motta e grandi ringraziamenti, no? So bene. Della mamma uccisa da un asteroide, anche il papà poi. Sì, no? Quello è il seguito, perché poi si è deciso che si andava avanti. Dopo tutte le polemiche che ci sono state su questa pubblicità, hanno deciso giustamente quelli della Motta, avendo capito quanto ha funzionato, perché col dibattito che sono riusciti ad accendere nemmeno ci avessero lavorato per anni proprio. Però noi abbiamo qui ospite il creativo, perché si chiamano così, dell'agenzia di comunicazione che ha creato appunto questo spot. Lo ringraziamo. Buongiorno a tutti i funamboli. Buongiorno, buongiorno. Sono il creativo che ha creato lo spot così in voga in questi giorni. La mia idea era di scardinare le regole della pubblicità che vuole sempre mamme felici, bambini sorridenti. Io ho cercato di cambiare queste regole un po' stantie. C'è riuscito, mi sembra. Anzi, se volete vi racconto anche il seguito di questo spot. Attenzione. In anteprima, questo sì che è uno scoop. Dopo la madre, che come avete visto viene seccata dall'asteroide, avete visto anche il padre seccato dall'asteroide, sì, sì. E poi seguirà anche il cane di famiglia seccato anche lui dall'asteroide. Seccato è un po' brutto. Poi tutti i parenti, si procede con tutta la parentela fino ai cugini di terzo grado, tutti seccati dall'asteroide, seccati. Fino a estinguere completamente tutta la famiglia della bambina. Alla fine si vede la bambina al funerale di tutta la famiglia e al momento della comunione la bambina dice al prete: vorrei un'ostia leggera ma decisamente invitante che possa coniugare leggerezza e golosità. Però. Il prete la guarda per un attimo preoccupato e dice: te la vado a prendere subito. Quindi tutta la saga finisce anche con un momento di ironia, e mentre la violenza finisce si sente che suonano le campane. Sfortunatamente però proprio alla fine una campana si stacca dal campanile e va a seccare il prete, che viene quindi travolto dalla campana. Seccato pure. Ma dal momento che lo spot ha avuto molto successo, caro Milan e Gentili, mi hanno chiesto di prepararne altre due che intendo raccontarvi, coniugando così un momento di leggerezza e curiosità. Sì. Dici? Il primo è per una nota marca automobilistica. Un signore entra in una concessionaria dicendo: vorrei un'automobile economica ma decisamente potente, che possa coniugare alte prestazioni a bassissimi consumi. Ho paura adesso. A questo punto entra il proprietario della concessionaria e dice: posso entrare qui adesso un militante dell'ISIS e tagliarmi la gola con una sciabola se esiste una macchina di questo tipo? Ovviamente il militante entra immediatamente, sì, priva della testa il proprietario della concessionaria, seccandolo. Però per non dare l'impressione di stare dalla parte dell'ISIS, altrimenti, alla fine il militante dell'ISIS, quando esce dalla concessionaria, viene seccato da un asteroide. Che è un po' il mio brand, è un po' il mio brand. Certo. E la seconda pubblicità riguarda una nota casa produttrice di alcolici. Un uomo entra in un supermercato e dice al commesso: vorrei un superalcolico leggero ma decisamente invitante, che possa coniugare l'allegria a un basso contenuto di alcol. Il commesso risponde: possa una colata lavica travolgermi immediatamente se esiste un superalcolico di questo tipo. E guarda che non fa in tempo a dirlo che da lontano si vede un vulcano nell'oceano Pacifico che comincia ad agitarsi fino all'esplosione, e non c'è bisogno che spieghi altro. Ma lei, no, scusi, certo, che problemi ha avuto? L'unica differenza è che alla fine il consumatore che beve il suo bicchiere di superalcolico davanti a una distesa lavica che ha travolto mezzo mondo, mentre il commesso ormai agonizzante gli dice: bevi responsabilmente. Seccandolo. Guarda per un attimo e poi viene seccato da un asteroide. Signore, ovviamente Leonardo Manera. Leonardo Manera, il nostro Leonardo. Senti, allora, ma dimmi di questa pubblicità del Buondì, che mi dici? Ma guarda, io trovo che le pubblicità debbano essere anche un po' dissacranti, debbano essere un po'... cioè, questi ha rotto l'icona della classica famiglia che dà l'idea del mulino bianco, no? C'era stata tramandata. Vogliamo dire che, felice, che ormai è un po' anacronistico pensare di fare ancora le pubblicità, anche se sono delle merendine per i bimbi, facendo la famiglia del mulino bianco, che è costata anni e anni di analisi a tantissimi cittadini italiani, diciamolo, perché a questo punto, che visto che il mondo va avanti, che ci siano infatti il mulino bianco adesso fa la pubblicità di Banderas, che sostanzialmente vive solo con una gallina, quindi grande amarezza. Dalle famiglie del mulino bianco ci si è ridotti. Comunque, così, guarda, quindi, da vicino nessuno è normale. Abbiamo 30 secondi, abbiamo mandato in onda la presigla del traffico e ho guardato Veronica e ho detto: ma tu lo sai che questo è Anacleto, il nostro caro amico? Cioè, vi giuro che non era previsto, oggi è il compleanno di Anacleto, che ci ha anche chiamato. No, non è vero che Anacleto è con due. Anacleto, il nostro pensionato di Pistoia. Anacleto? Buongiorno, ben rientrati tutti. Buongiorno, ma quanti anni compi? Ma che felicità! Quanti anni compi? Mamma mia, lasciamo perdere. Vabbè, lasciamo perdere. Ce lo puoi dire. Meno di Berlusconi, senti, insomma. Sì, bravo. Quanti ne compi? Diccelo, se no ti facciamo gli auguri. 62. Sei un ragazzo. Un bimbo. Allora guarda, dobbiamo chiudere. Anacleto, ti chiamiamo un altro giorno. Buon compleanno. Facciamo, no, non te la cavi così. Adesso si canta stile Marilyn Monroe per Anacleto, forza, e chiudiamo la puntata. Dai, così insieme. No, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Anacleto. Happy birthday to you.